Questi dati sostanzialmente ci dicono, come già sappiamo, che siamo in piena crisi economica e sociale, considerando dicembre il mese appunto dei regali, dello shopping, delle scene fuori, e quindi anche, come dire, colpiti soltanto in parte dalle chiusure, ma più sostanzialmente da quello che è il calo della domanda da parte dei cittadini e dei consumi, anche la voglia magari di non andare a riempire i negozi. Troviamo una riduzione del lavoro femminile, che è sovrarappresentato in questi settori e in questi tipi di attività. Nulla di stupefacente, sostanzialmente. A proposito del lavoro femminile, però, insomma, sappiamo che in generale in Italia c'era e c'è ancora fino a fine marzo il blocco dei licenziamenti, eppure si perdono posti di lavoro. Questo ci dice che sono contratti più precari quelli delle donne? Certo, noi sappiamo benissimo, le donne sono sovrarappresentate nei settori più precari, più precarizzano. Di conseguenza sono in qualche modo senza protezioni, come possono essere il blocco dei licenziamenti, ma anche se pensiamo a altri tipi di sussidi e parti dello Stato sociale che non si applica proprio per costruzione al lavoro precario. E di conseguenza le donne subiscono la propria precarietà soprattutto in un periodo di crisi, come abbiamo visto la crisi del 2008 rispetto alle donne, rispetto ai giovani. Cioè, non è un dato che fa emergere la discriminazione di genere in quanto tale. La discriminazione di genere esiste sempre, ma va di pari passo con quelli che sono i cambiamenti e le riforme liberali del mondo del lavoro, proprio perché è parte vulnerabile che viene estremizzata. Però, insomma, da altre statistiche le donne sono mediamente più istruite, eppure, come dire, occupano posti di lavoro meno qualificati? Sì, in generale diciamo che la segregazione femminile esiste a parità di caratteristiche individuali, che possono essere appunto l'istruzione, l'età, ma anche, se vogliamo, in parte anche lo status culturale, il background familiare, che sono tutte le forme di discriminazione che esistono. Dopodiché pensiamo anche che è vero che questo si abbatte più sulle donne. In Italia abbiamo il problema che i laureati fanno i camerieri, per quanto lavoro super per me dignitoso, perché abbiamo una domanda di lavoro che è scarsa qualitativamente. Quindi da qui poi si ritorna all'incentivo a studiare e appunto non guadagnare per anni all'università. In Italia qual è, se poi appunto ti chiedono di fare il magazziniere, lo scaffalista o simili? D'altro lato, una cosa che ci chiediamo poco quando guardiamo la disparità di genere nei luoghi di lavoro è se una donna che comunque diventa manager, che comunque diventa quadro, che è una professionista per esempio nella sanità, è a pari livello lì in quell'occupazione che è di alta qualificazione trattata meglio o peggio di un suo pari uomo. È così che dobbiamo leggere anche le forme di discriminazione. La scarsa qualità dell'occupazione dipende da un modello industriale preciso? Sì, ovvero il modello industriale italiano, che è di forte deindustrializzazione e di impoverimento di quella parte, diciamo, di manifattura che esiste, quindi l'occupazione, ovvero il contributo del lavoro alla produzione di reddito e ricchezza nazionale, si concentra in settori abbastanza scarsi, e allo stesso tempo da un lato il privato, dall'altro dobbiamo ribadire che non esiste un piano di assunzioni pubbliche o un decennale smantellamento, se vogliamo, del fattore umano, no? Qualcuno diceva, all'interno della pubblica amministrazione. E questo proprio sul lavoro delle donne, sulla qualità del lavoro e della vita delle donne, in Italia ha inciso fortemente rispetto ad altri paesi europei, come del resto incide fortemente l'assenza di, lo ribadiamo per l'ennesima volta, salari minimi elevati, proprio per far uscire i più vulnerabili, quindi le donne, da forme di ricatto e forme più aggressive di povertà lavorativa. Anche il welfare e la sua assenza incidono. Certo, cioè il welfare ha due legami con le donne. Da un lato i settori appunto del welfare sono abbastanza femminilizzati, ovvero la quota di donne rispetto ai lavoratori totali è elevata. La scuola, pubblica amministrazione, gli asili, ma anche la sanità. Blocchiamo il turnover, se non facciamo le assunzioni nel pubblico, sostanzialmente stiamo dando meno opportunità di lavoro alle donne. Dall'altro lato c'è che un modello culturalmente maschilista come quello italiano, una volta che chiudono le scuole e non hai i nonni, non hai gli asili, sostanzialmente sono le donne che si dimettono, sono le donne che lasciano il passo appunto all'occupazione, al lavoro, per dedicarsi alla cura dei figli.